Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vi anticipo che domani, c'è qualcuno che ce lo chiede, saremo regolarmente in diretta da Trento, dove si apre l'edizione annuale del Festival dell'Economia, che anche quest'anno vedrà, oltre a partecipazioni istituzionali, penso al Ministro dell'Economia Padoan, ma non solo, dibattere di vari temi, ma domani li affronteremo con calma. Relativi proprio anche agli scenari economici, ma per quello che riguarda invece la giornata di oggi, ci occuperemo di alcune notizie, da un lato anche relative a questo lungo ponte che sta iniziando. Ci sono già le prime stime diffuse dagli operatori turistici e in particolar modo da chi rappresenta il mondo alberghiero sui dati che stanno registrando sul fronte del cosiddetto ponte. Saranno circa 7.150.000 gli italiani. Il dato interessante anche qui, che è un indicatore empirico, chiamiamolo così, sull'andamento economico, è che sono 1 milione in più rispetto all'anno scorso. Però attenzione, è un ponte particolarmente favorevole. Più 16,5%, dicevo, la stragrande maggioranza, il 92%, come nel 2015, resterà in Italia, l'8% andrà all'estero. E questo per quello che riguarda il dato, diciamo, più di colore. Mentre per quello che riguarda la parte di borsa e dei temi legati alla finanza, qualche reazione ancora oggi dopo l'intervento, dopo le considerazioni finali del governatore che abbiamo ieri ampiamente commentato e sentito. Ci sono dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan che ribadisce che l'economia italiana ha svoltato, la crescita accelera. Speriamo che abbia ragione. Non esclude un taglio dell'IRPEF già sul 2017, se compatibile, e ha parlato anche di privatizzazioni a partire da quelle delle ferrovie dello Stato e del Fondo Atlante, senza il quale, ha detto Padoan, si rischiava la crisi sistemica delle banche italiane. Avremo anche un approfondimento sul tunnel del Gottardo. Oggi è arrivato anche il Presidente del Consiglio a inaugurare il tunnel del Gottardo. Ricordo che è il tunnel ferroviario più lungo del mondo, sono 57 chilometri di galleria sotto le Alpi, più della galleria, a chi piacciono le statistiche, di Seikan in Giappone, e più del tunnel della Manica, che sono 50 chilometri. Questo è uno dei passaggi per il traffico tra il nord e il sud Europa, ma non sfugge a nessuno che rientra complessivamente anche negli altri due tunnel che mancano. Uno è quello famoso del Val di Susa e l'altro è il raddoppio del Brennero. Partiamo da qui, però poi ne parleremo in maniera più approfondita con i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli, che come sempre sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Chi mi chiede: ma tornerete sul tema del latte? Certo, l'avevamo promesso, faremo, perché ieri abbiamo avuto pochissimo tempo, alla luce anche di quelle che sono state le prime indicazioni arrivate dall'Europa. Però tunnel del Gottardo, i 100 secondi di Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Nell'Europa che vuole costruire muri, la Svizzera, che è fuori dall'Unione Europea, inaugura la galleria più lunga del vecchio continente e accorcia le distanze ferroviarie tra Italia e Svizzera di almeno un'ora, dando un contributo fondamentale al rafforzamento del corridoio merci Reno-Alpi che transita da Genova a Rotterdam. Non a caso all'inaugurazione di quest'opera storica erano presenti i capi di governo di Svizzera, Italia, Germania e Francia. Il tunnel lungo 57 chilometri, costato 17 miliardi, è stato completato nell'esatto tempo preventivato, 17 anni. L'obiettivo condiviso tra Europa e Svizzera è quello di trasferire sempre più traffico merci su rotaia, grazie al fatto che si potranno comporre treni più lunghi e più pesanti e il tempo di percorrenza sarà molto abbreviato. Ogni giorno saranno previsti 260 convogli contro i 180 che invece oggi viaggiavano nel vecchio tracciato. Per l'Italia però si tratta di completare le opere di collegamento al tunnel, che potrebbero dare un ulteriore impulso al ruolo strategico del porto di Genova, altrimenti senza quei raccordi anche il Gottardo rischierebbe di essere un'occasione persa. Le stime più pessimistiche però danno il completamento di quelle opere al 2030, anche se un primo lotto di investimenti per 600 milioni è in programma di realizzarle entro il 2020. Lo stato di avanzamento dei lavori però è fermo all'11%. Per dare davvero impulso al traffico merci proveniente dal porto di Genova sarà decisivo il completamento del terzo valico dei Giovi, 53 km di cui 37 in galleria in programma da 15 anni, con costi stimati di 6,2 miliardi. Finora ne sono stati trovati 2,2 di miliardi e i lavori sono fermi all'11% di realizzazione. Il tempo per concluderli è rimasto fissato al 2021, a voler essere ottimisti, molto ottimisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ripeto, parleremo, vedo molte domande sul tunnel del Gottardo, l'opera diventerà operativa in dicembre. Dopo 17 anni di lavoro, 11 miliardi di euro di investimenti, 12,2 miliardi di franchi svizzeri, ma vi arriveremo. Dice la borsa -1,23%, qui invece il tema è, riguarda oggi in particolare la Brexit. Certo che sui titoli di casa nostra pesano ancora tutte le incertezze del mondo bancario, però c'è un andamento complessivamente negativo di tutte le borse europee, -0,65% Parigi, -0,60% Francoforte, Londra -0,70%, il Dow Jones -0,13%. Cosa è successo sulla Brexit? Nulla, però già ieri raccontavamo di sondaggi diffusi dal Daily Mirror in cui si accorciava di molto la distanza tra quelli per restare ancora maggioritari, chi voterebbe per restare, remain in Europa, invece quelli per, rispetto a quelli che voteranno per andarsene. Oggi il Guardian pubblica un sondaggio in cui in realtà addirittura sarebbero a questo punto in vantaggio quelli per l'abbandono, diciamo, della Gran Bretagna in Unione Europea, e questo è un primo elemento. Poi ci sono dati cinesi non esaltanti sull'andamento del settore manifatturiero, da cui partiamo. Dopo aver ricordato che a parte Campari +0,70% e Telecom +0,40%, di nuovo in pesante calo tutte le banche popolari, popolari, -7% il Banco Popolare, -5,30% la Pop Milano, -4,5% la Pop Emilia Romagna, -4,20% il Monte dei Paschi, UBI Banca -3,11%. Poi c'è Fiat Chrysler che perde il 2,81%, commenteremo i dati che usciranno alle 18 sulle immatricolazioni auto. Ancora Mediobanca -2%, Yux Net-a-Porter -2%, Unicredit -1,70%, come Saipem, Intesa San Paolo e Unipol Sai. Allora, mentre veniamo al petrolio, oggi di nuovo in calo, -2,3% a $48 al barile, sia il Brent che il WTI. In tema di petrolio, la Procura della Repubblica di Potenza oggi ha disposto il dissequestro temporaneo del centro oli di Viggiano dell'ENI, dove fino al 31 marzo scorso venivano trattati circa 75 milioni di barili di petrolio al giorno, prima del sequestro, me lo ricorderete, delle due vasche e di un pozzo di reiniezione nell'ambito dell'inchiesta sul petrolio in Basilicata, quella che poi ha portato alle dimissioni dell'ex ministro Guidi. Ancora per i dati internazionali invece, e proprio legandole al prezzo del petrolio, l'utile netto delle banche statunitensi nei primi tre mesi dell'anno è calato del 2%, legato sostanzialmente al calo dei prezzi del petrolio, che ha fatto balzare i default sui prestiti alle società energetiche, non le grandi compagnie ma anche le piccole, soprattutto in America, dove ci sono centinaia di società che estraggono il petrolio, il famoso shale oil. Ancora, per quello che riguarda la Cina, dicevamo di un dato non bello, perché l'indice del settore manifatturiero cinese è fermo a maggio sugli stessi livelli di aprile, a 50,1 punti. Siamo veramente al limite tra recessione ed espansione economica. 50 punti sono spartiacque. L'industria dei servizi registra una frenata a 53,1 punti. E sostanzialmente l'indice rivisto segna un deterioramento di tutto l'indice manifatturiero ai minimi degli ultimi tre mesi. Questo non è piaciuto chiaramente ai mercati, perché segnala una difficoltà comunque della Cina a mantenere gli obiettivi che si è data, mentre in Brasile il PIL è tornato a calare, ma lì sapevamo che il Brasile va verso un nuovo anno di recessione, -0,3% nel 2020. 2016, dopo aver chiuso, lo ricordo, il Brasile nel 2015 con la peggior recessione degli ultimi 25 anni. Volete sapere quanto sono i punti, i sondaggi sulla Brexit? Allora, dicevo, quello del Guardian di oggi è stato effettuato tramite telefono e online, dagli euroscettici al 52% e al 48% quelli a favore dell'Unione Europea. Che cosa sta determinando un cambio dei consensi? Beh, la polemica sull'immigrazione, che da giorni domina il dibattito anche in Gran Bretagna. Però se prendiamo tutti i sondaggi in media, c'è un leggero ancora vantaggio per chi vuole restare nell'Unione Europea, il 46% contro gli euroscettici, che sarebbero al 43%. Però il margine continua a ridursi e mancano ancora più di 20 giorni. Un'altra cosa che non è piaciuta è l'andamento dell'indicatore manifatturiero nell'area euro, rallentato 51,5 punti, di nuovo avvicinandosi alla soglia dei 50 punti che registra la stagnazione economica. Chi ha fatto contrarre il livello di area euro, questo indice sul manifatturiero? Francia e Grecia, ma soprattutto Spagna, Italia e Irlanda, mentre Olanda e Germania hanno registrato un'accelerazione. E visto che rallenta l'attività manifatturiera, oggi vale la pena ricordare che compie un anno il piano Juncker, piano su cui noi ci siamo sempre detti molto molto scettici, quel piano che dovrebbe mobilitare 315 miliardi di investimenti con 20-30 miliardi di risorse non nuove europee, cioè sostanzialmente ogni miliardo messo dall'Europa, Juncker si aspetta che ci siano quasi 20 miliardi messi dai privati. In realtà il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici dice che sono già stati mobilitati 100 miliardi, Bruxelles ha confermato che l'Italia è il primo beneficiario con 45.000 piccole e medie imprese coinvolte. La Commissione propone anche di aumentare i fondi previsti per tutte le piccole e medie imprese, lo ha detto anche lo stesso vicepresidente della Commissione Europea, Katainen, dicendo che 100 miliardi sono già stati mobilitati in 26 paesi e Italia leader grazie alla Cassa Depositi e Prestiti, che è definita da Katainen la migliore in Europa per l'equity financing. E la leadership della banca è stata molto attiva sin dall'inizio per le opportunità offerte dal piano. 28 accordi firmati con intermediari finanziari per facilitare l'accesso al credito di 50.000 piccole e medie imprese italiane e vorrebbero a Bruxelles portare il piano Juncker al di là del 2018. Migliora l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti secondo quanto monitora la Banca Centrale Europea, mi riferisco chiaramente all'Italia, migliora l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti bancari con un miglioramento delle disponibilità di prestiti bancari e un ulteriore calo dei tassi di interesse e un aumento delle dimensioni e scadenze medie di prestiti e disponibilità di scoperto sul conto corrente. Sempre sull'Italia, e poi andiamo a Padova, oggi l'OCSE nelle sue prospettive, previsioni di primavera, quasi estate, l'Economic Outlook prevede una crescita dell'1% quest'anno per l'Italia e dell'1,4% nel 2017, un debito stabile, un deficit che continuerà a calare scendendo quest'anno al 2,3% del PIL e al 2% nel 2017. Sottolinea l'OCSE che per ridurre la spesa pubblica occorrerà aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, il tema si chiama Spending Review. La disoccupazione viene vista all'11,3% quest'anno e scenderà al 10,8% nell'anno prossimo. Ricordo che l'anno scorso è stata all'11,9%, quindi comunque se il tasso di disoccupazione dovesse scendere all'11,3% sarebbe comunque un buon dato. E l'OCSE torna a chiedere, come ha già fatto la Commissione Europea, come ha già fatto il Fondo Monetario, al governo italiano di spostare le tasse dal lavoro, e quindi IRPEF e da chi lavoro lo dà, ai consumi. Devo dire che una richiesta analoga è arrivata anche dal presidente Confindustria Boccia nella sua relazione di investitura, sui consumi e sulla casa. E poi aggiunge che occorre un mercato secondario per la gestione delle sofferenze bancarie. Ma su questo, sull'IRPEF, è intervenuto anche il ministro Padoan in un'intervista a Sky TG24. Ha detto: non escludo un taglio dell'IRPEF già a partire dal 2017, se compatibile. Io non escludo niente, si tratta di il mio approccio, l'approccio del governo è quello pluriennale. Noi continuiamo in una struttura decisa all'inizio, che è quella di usare il bilancio pubblico per sostenere la crescita, ma allo stesso tempo aggiustare la finanza pubblica sul deficit che continua a scendere. Siamo uno dei paesi più virtuosi in Europa dal punto di vista della finanza pubblica e questo ci viene riconosciuto e ha un vantaggio, perché i mercati ci permettono di pagare molto poco il nostro ancora gigantesco debito pubblico. Quando ci mettiamo a lavorare sulla legge di stabilità, e già lo stiamo cominciando a fare, prendiamo in considerazione tutte le ipotesi, non ci sono preconcetti, ci sono alcuni principi guida, diciamo, di buona gestione. All'interno di questi principi guida tutte le ipotesi che vanno a beneficio dei cittadini sono prese in considerazione. Noi ci impegniamo intanto a tagliare le tasse che già sono state deliberate nella legge di stabilità precedente e a disinnescare le clausole di salvaguardia in un contesto nel quale, ripeto, l'obiettivo di finanza pubblica è quello di continuare a ridurre il deficit e insistere sulla caduta del debito rispetto al PIL. Ecco, vorrei farvi ascoltare ancora due passaggi dell'intervento di Padoan. Uno che farà discutere, immagino, gli ascoltatori. Vedo già che scrivono al 349-238-6666 sia per SMS che WhatsApp. Poi, come sempre, c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Uno sulla crescita, perché Padoan è ben più ottimista, almeno in questa dichiarazione, sia del presidente Confindustria che del governatore della Banca d'Italia. E poi invece ascolteremo anche la parte che riguarda il Fondo Atlante. Però sentiamo Padoan sulla crescita e sulle privatizzazioni, in particolare quelle delle ferrovie dello Stato. Io non sono preoccupato, sono incoraggiato. La crescita è l'uno o qualcosa di più quest'anno, ma sarà più elevata l'anno prossimo, il che vuol dire che la crescita accelera. Il che vuol dire che dopo anni di recessione in cui abbiamo perso 10 punti di PIL, l'economia italiana ha svoltato. Certo, non sono soddisfatto, bisogna fare molto di più e il governo continuerà a fare le riforme e a sostenere il taglio delle tasse. Quello che conta nel debito è la sua dinamica. Il debito ha continuato a crescere per molti anni a causa della recessione. Adesso ha cominciato a scendere, questo è quello che è importante dal punto di vista della credibilità sui mercati. Le privatizzazioni saranno poca cosa se viste come snapshot, come fotografia, ma sono un importante contributo alla discesa del debito. Noi privatizziamo sia perché c'è un beneficio in termini di debito, sia perché si espone l'impresa che privatizza a una valorizzazione, a una pressione di mercato manageriale estremamente importante. Quello che sta succedendo apposta in termini di miglioramento dell'efficienza è lì a dimostrarlo. Sulle ferrovie già stiamo lavorando a diverse ipotesi insieme al management di ferrovie, quindi questo è in programma tra il 16 e il 17. E poi Padoan si è concentrato anche su altri temi, la flessibilità è importante con la riduzione delle centrali d'acquisto, questo riguarda la spending review, la revisione della spesa da 33.000 a 35. Stiamo introducendo risparmi del 20% in molti acquisti per o della pubblica amministrazione. Le ferrovie si quoteranno in borsa? Beh, si andrà a privatizzare il 40% delle ferrovie, per cui. Però sto rispondendo a un ascoltatore, chiaramente. E poi sul Fondo Atlante, senza il Fondo Atlante si rischiava una crisi sistemica. Questo lo ascoltiamo dopo, perché vorrei invece andare subito al primo tema, e mi riferisco al tema del latte, perché ieri l'abbiamo lasciato un po' sospeso, è arrivata il decreto che il governo ha deciso, è arrivato anche a Bruxelles. Allora, sentiamo intanto l'annuncio del presidente del Consiglio Renzi, che ha detto appunto ieri: il decreto per l'origine del latte in etichetta è già stato firmato, non è una promessa. Il secondo appuntamento che noi abbiamo prevede un documento che è questo. è già stato firmato, non è una promessa. Si chiama decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti trasformati a base di latte. In attuazione del regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazione sugli alimenti ai consumatori. Questo documento è già stato firmato e inviato a Bruxelles ieri. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Oh, allora. Ringrazio di nuovo il presidente di Confagricoltura Lombardia, Matteo Lasagna. Ieri ricordavamo prima regione agricola d'Italia, anche se pochi lo sanno, e prima produttrice di latte, allevamenti. Buonasera Lasagna. Buonasera. E grazie, appunto su questo l'abbiamo visto che cosa è successo con l'arrivo del decreto a Bruxelles. Tra le diciture chiare, se ho ben capito, sulle etichette del latte vi sarà il paese di mungitura, il paese di confezionamento e il paese di trasformazione. Prima domanda, perché ieri forse anche noi avevamo capito male, varrà anche per i formaggi? Il decreto dovrebbe escludere i prodotti DOP e IGP, quindi quei prodotti che hanno già un iter di regolamento loro interno, e quindi questo decreto dovrebbe escludere l'etichettatura su quelli che sono i formaggi, mentre dovrebbe includere tutta quella etichettatura che adesso non esiste sul latte, sui derivati del latte, tipo il latte UHT, ecco, tanto per renderci un'idea, anche perché il decreto dovrebbe escludere anche il latte fresco. Allora, noi abbiamo raccontato che sostanzialmente in questi anni c'è stato, ahimè, una chiusura continua, praticamente nel 2015 hanno chiuso solo nel 2015 1000 stalle in questo paese, certo. Il 60% delle quali, cosa ancora più grave, in montagna. Perché dico più grave? Perché non ci vuole un genio per capire che lì non fai solo produzione di latte, fai anche manutenzione e presidio del territorio, per cui ok, 1000 stalle per un anno, e ci sono stati dei dati continuamente in calo in tutti questi anni. Ancora abbiamo una voce, quella del latte, che è la più importante nell'agroalimentare italiano, vale 28 miliardi di euro, un poco meno di 180 mila occupati nell'intera filiera, 35 mila allevatori in Italia, di cui la metà opera in zone montane o svantaggiate. Che cosa era successo? Era successo, lo dico a chi si fosse perso le puntate precedenti, che vi era stata un'agitazione e manifestazione degli allevatori produttori di latte, perché con costi medi di produzione tra 38 e 41 centesimi al litro, le grandi industrie del latte, le multinazionali del latte, ma non era solo Lactalis, ci sono anche quelle di casa nostra, riconoscevano dei compensi che non coprivano nemmeno i costi. Perché questo? Perché andavano a comprare il latte e lasagna, giustamente, non è un reato comprare il latte in Germania, in Polonia o all'estero, in Olanda. Però il problema era che il nostro non diventava più concorrenziale. Praticamente avevamo fatto anche un calcolo che un allevatore, per comprarsi una bottiglietta d'acqua, doveva vendere 4 litri di latte, per comprare una bottiglietta d'acqua al bar, 15 litri per un pacchetto di sigarette, 3 litri per bersi un caffè. Questi sono i margini inesistenti che avevano. Secondo vari studi, 3 buste di latte su 4 e una mozzarella su 2 sono fatte con latte straniero. Ogni giorno entrano in Italia 3 milioni e mezzo di litri di latte sterile oppure concentrato, cagliato, dall'estero. Ora, voi ritenete che in questo modo il nostro allevatore potrà ottenere un prezzo un po' più alto? Cioè, io consumatore, se so che quel prodotto lattiero caseario è totalmente italiano, dalla mungitura alla trasformazione e quant'altro, posso pagare un prezzo un po' più alto? Come avviene per altri settori, o DOP o penso al biologico, prego. Ma le dinamiche del mercato del latte, come lei ben ricordava prima, stanno assumendo contorni di dinamiche europee di formazione del prezzo. Per cui noi che siamo non produttori netti di latte, noi produciamo il 71% del nostro fabbisogno e ne importiamo il 29%, soffriamo molto questo tipo di dinamica di mercato. Volente il fatto anche che la maggior parte dei nostri prodotti DOP è sì in parte esportato, ma il consumo nazionale fa ancora la maggior parte del mercato. Ora, il problema è di una sovrapproduzione totale europea di materia di latte. Questo decreto aiuta, certo, per quanto riguarda l'etichettatura, se vogliamo dire così, lo status reddituale degli allevatori. Di certo però non è e non può essere l'unica azione che questo governo deve fare per portare a casa un reddito equo per gli allevamenti e gli allevatori italiani che lei ben prima ricordava. Le faccio solo e soltanto presente che ad esempio l'altro ieri lo Stato tedesco ha stanziato 100 milioni di euro per il sistema allevatoriale, non intesi in termini di fondi e nemmeno di aiuti, ma per strutturare meglio quello che è il comparto lattiero caseario. Se le chiedo di fare un nome di un formaggio tedesco, lei come me non lo conosce, però loro sono molto bravi ad esportare quelli che sono i loro prodotti. No, infatti è una cosa che a me manda in bestia, non ce l'ho con i tedeschi stavolta, è che la Germania ha un valore dell'export agroalimentare più alto dell'Italia, cioè quindi noi poi siamo bravissimi a raccontare la qualità dei nostri prodotti, della biodiversità, tutte cose verissime, poi però quando dobbiamo fare massa critica, perfino i tedeschi esportano nell'agroalimentare più di noi, e va detta tutta, non è che la Germania abbia questa immagine, però riesce poi a fare massa. Detto questo però, Lasagna, per concludere, io vorrei capire, voi chiedete anche altre clausole, però ieri dicevamo questo potrebbe essere una quadratura del cerchio, cioè tu non puoi imporre all'industria italiana o all'industria francese presente in Italia un'azione tra virgolette comunista sui prezzi, perché uno va a cercare di comprare il latte là dove riesce a avere più margine. Certo, però non certo. Puoi neanche accettare così passivamente 1000 stalle all'anno che se ne vanno, 400 milioni di euro persi solo l'anno scorso a causa del crollo del prezzo del latte alla stalla e via così. Esatto. Questa soluzione secondo voi può rappresentare il modo in cui, diciamo, da un lato mantenere le esigenze dell'industria alimentare, ma dall'altro anche dire bene, se io scrivo tutto latte italiano potrò dare un prezzo un po' più alto fuori, immaginando che io mi fidi più del latte, oppure tutto latte trentino, tutto latte piemontese, tutto latte della pianura lombarda, cioè questo secondo voi riuscirà poi a giustificare un aumento di prezzo nel latte, quindi un prezzo più alto pagato agli allevatori? Questo in parte riuscirà ad essere, è logico che la scelta del consumatore finale poi è sovrana in questo, come giustamente diceva lei. Io credo che sia l'inizio di una strada che deve però prevedere una strategia più ampia, fatta anche di export, fatta anche e soprattutto di una tracciabilità di quei prodotti che non devono essere solo e soltanto lattiero caseari. Ieri velocemente le ricordavo che la Francia un mese fa ha depositato lo stesso decreto, ma l'ha depositato ad esempio anche sul settore delle carni, bovine, suine e avicole, perché tutto il settore zootecnico, non solo lombardo ma italiano, sta passando una crisi o comunque sta raccogliendo la coda di una crisi che è devastante i numeri di chiusura degli allevamenti. Senta Lasagna, vorrei chiedere un'ultima cosa, perché molti ascoltatori mi dicono ma com'è possibile che al supermercato il latte fresco, per esempio austriaco, costi sempre meno di quello italiano? È un problema dei nostri allevamenti difficili, zone montane svantaggiate, o di anche allevamenti troppo piccoli, cioè che all'estero, come in altri settori, riescono ad avere misure, dimensioni più grandi, quindi avere costi di produzione più bassi? Indubbiamente la questione della ridotta espansione degli ettari di un'azienda media italiana e lombarda gioca un ruolo importante. non indifferente. Aggiungo anche che però l'aumento dei costi fissi di produzione che sopportano gli allevatori italiani rispetto a loro competitor stranieri è sotto gli occhi di tutti. Gli allevatori francesi pagano il 30% in meno il costo dell'energia elettrica, tanto per darle un dato, mentre noi invece abbiamo questo costo. Sì, questo vale per tutta l'attività manifatturiera italiana. Una cosa voglio dirgliela però, visto che i costi di sistema che voi sostenete sono quelli che sostengono anche gli industriali del manifatturiero, per esempio, costi di energia, tassazione e quant'altro, burocrazia, voi fate un giorno ogni tre lo spendete per la burocrazia, se non ricordo male, perché poi in agricoltura ci sono una marea di vincoli e obblighi di carattere burocratico amministrativo, però il tema delle dimensioni vale anche per voi, lasagna, cioè io capisco chi sta in montagna chiaramente fa un allevamento dal peggio, però nella pianura padana o dove si può fare non sfuggite al tema di dimensioni più grandi, perché sennò solo con le produzioni di nicchia non tenete botta, io ve lo dico molto tranquillamente, assolutamente, anche perché un conto è dire latte montano che viene da, per carità, io posso reggere con un prezzo più alto come per i formaggi prodotti lattero caseari, ma se invece sono in pianura padana il problema è che non voglio fondermi, voglio mantenere la mia stalla con pochi capi rispetto a quello che sarebbe la necessità di mercato, e lì non si può imputare la colpa però al destino cinico e baro, Se posso, dottor Barisoni, assolutamente è vero, non per niente Confagricoltura si sta impegnando con molta efficacia per cercare di promozionare uno strumento che sono le reti d'impresa, che superano quelle forme di aggregazione magari un po' datate come la cooperazione, e che cercano di dare una dimensione strutturale e soprattutto commerciale adatta alle esigenze del mercato e dei produttori. Su questo dobbiamo molto lavorare, però siamo qui anche per questo. In bocca al lupo a lei, a tutti gli allevatori e agricoltori italiani, a qualunque confederazione appartengano, non voglio parlare delle confederazioni adesso perché mi arrabbierei. Il latte è bianco per tutti. Grazie ancora al presidente di Confagricoltura Lombardia, Matteo Lasagna. Bevete più latte. Sì, confermo che il decreto del governo prevede 3 diciture obbligatorie sul latte, me lo chiedono molti ascoltatori, e cioè paese di mungitura, paese di confezionamento, paese di trasformazione. Se le 3 fasi avvengono nello stesso paese si potrà indicare solo il relativo paese, però sarà obbligatorio sempre indicare espressamente il paese di mungitura. Andiamo sul traffico, visto che c'è l'Italia in movimento, poi la borsa... sì, certo, il meteo volevo dire, non il traffico, scusatemi. È che stiamo arrivando quasi sul traffico, potevo raccargare i 2. Allora, il meteo, la pubblicità, poi torniamo con la borsa e poi ci sarà anche il traffico, l'Italia in movimento e Giulio Sapelli, l'uccellaccio, per commentare questi dati del ministro sempre ottimista e di altri meno ottimisti del ministro. State ascoltando un programma offerto da... Vicinissima e amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. Allora, la borsa, poi il turismo, il Gottardo e Sapelli, pure i dati auto, mio Dio, stavo dicendo. Allora, -1,20% Milano oggi, -0,70% Parigi, -0,60% Francoforte, -0,70% Londra e -0,24% anche il Dow Jones. Male da noi soprattutto, di nuovo le popolari, Banco Popolare -6,30%, Pop Milano -4,70%, Emilia Romagna -4,30%, Monte dei Paschi -3,80%, Ubibanca -2,60%. Chiudo con le banche, con Unicredit -1,80%, Intesa -1,60%. Male anche Fiat Chrysler -2,96% e Yux Net-a-Porter -2,30%, Saipem -2,15%, Leonardo Finmeccanica -1,90%, Fineco Bank perde lo 0,50%, A2A guadagna lo 0,50%, scusate, A2A lo 0,40% come Telecom Italia e Campari. just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. Allora, Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, Sebastiano. Brexit e quindi aumento dei sondaggi di chi vorrebbe lasciare l'Unione Europea, dati cinesi sulla manifattura che raccontavamo all'inizio del programma e Veneto Banca, che è una popolare di Vicenza numero 2, tutto questo ha un po' affossato i titoli bancari. A te il commento complessivo, non ti interrompo per due minuti. Sì, sicuramente questi elementi sono stati alla base dell'andamento della giornata di oggi. È tornato soprattutto il malumore sulle banche, innanzitutto perché ci si aspettano i dettagli. Non è che se ne fosse mai andato, ti ho già interrotto, ma non è che se ne fosse mai andato. Sì, malumore. Esattamente, magari c'era stato, diciamo, durante il mese di maggio un attimino di recupero negli acquisti in attesa di due test importanti. Uno l'hai citato tu, quello di Veneto Banca, l'altro in arrivo probabilmente già partirà la prossima settimana, l'aumento di capitale da 1 miliardo del Banco Popolare. Visto l'andamento delle banche precedenti, ci si aspetta anche qui un aumento a forte sconto, certamente non come quello di Veneto Banca e Vicenza, ma la situazione è tale da penalizzare fortemente il titolo del Banco Popolare. A questo si sono aggiunti timori anche sulla gestione dei crediti problematici, in particolare della Popolare dell'Emilia Romagna, visto che l'amministratore delegato Vandelli ha parlato di un'operazione in corso su 800-900 milioni di crediti, tutta da definire. Resta pendente la questione Unicredit, non solo la questione amministratore delegato, ma anche il tema aumento di capitale. Ieri qualche casa di investimento ha detto è inevitabile una ricapitalizzazione da almeno 5 miliardi e il titolo oggi ha perso il 2%, può essere già andato male ieri. Sì, mi fanno notare gli ascoltatori che praticamente il tunnel del Gottardo, a proposito di buchi, il buco del Gottardo è costo come il buco della Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, 11 miliardi, avete ragione, con l'aggiunta che quel buco lì ha distrutto soldi, il buco del Gottardo, chiamiamolo così, ha almeno dato lavoro in questi anni. E costa 11 miliardi. Comunque, noto gli ascoltatori particolarmente attenti e raffronti. Andiamo sui migliori e peggiori. Altro non ho da aggiungere oggi sulla borsa. Per quello che riguarda i migliori e peggiori della seduta, chiaramente solo su Piazza Affari, EMS più 37%, Digital Bros più 14%, Isagro più 9,30%, D-Mail più 6,20%, Pquadro più 4,70%, Male Pininfarina meno 6,70%. Cassa di risparmio di Genova come le altre banche meno 6,60, e poi abbiamo detto del Banco Popolare, Sniper del 5,80, Innovatec meno 6,40, Visibilia meno 4,80. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, traffico. Focus Economia. Allora, prima di arrivare al Gottardo e alle prospettive economiche, un dato, un aggiornamento vorrei farlo in questi pochi minuti sui milioni di italiani che si stanno muovendo, perché il dato che è arrivato oggi dalle varie associazioni del turismo e degli albergatori è di 7 milioni e 151 mila italiani, un milione in più esatto rispetto al 2015, che si sposteranno per il ponte il 2 giugno, addirittura più 16,5% quelli che trascorreranno una notte fuori casa. Il 92% resterà in Italia come l'anno scorso. Dottoressa Barbara Casillo, direttore generale dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, buonasera. Buonasera. Quanto c'è in questo di ponte particolarmente favorevole e quanto c'è di una leggera, so già che alcuni ascoltatori si arrabbieranno, ripresa economica e quindi un dato realmente positivo? Diciamo che questo fenomeno noi lo stiamo osservando già da qualche mese, il ritorno degli italiani alla vacanza, poi dobbiamo andare a distinguere questo 10% di italiani in viaggio se va in alberghi o se va nella seconda casa, come succede spesso in questo caso, certo, quando abbiamo questo tipo di ponti, ma in generale diciamo che è già da qualche mese che registriamo un'inversione di tendenza per quello che riguarda il mercato nazionale, che invece aveva molto sofferto nel periodo della crisi. Ecco, io poi avevo promesso, rifarò una puntata più avanti dedicata, appena usciremo da, insomma, amministrative, Brexit, quindi andiamo a fine giugno, dedicata al turismo che vede l'Italia continuare a perdere posizioni anno dopo anno. Questo è un, diciamo così, una critica, sì, però... una critica che faccio anche a chi rappresenta le varie categorie, perché vedete qualcosa non sta funzionando, ma non voglio parlarne adesso. Noi siamo scesi eravamo a settimi al mondo per contributo al turismo al PIL nel 2014, siamo all'ottavo posto, ma ricordo anni, nel 2000 noi incassavamo praticamente più soldi di Germania, della Cina, di Macao, eravamo... Però mi è dica... un po' cambiato il mondo, sì, del turismo, sono entrati dei player, certo, talmente grandi, mm, che tutti gli equilibri si sono un pochino riposizionati. Credo, sì, che guardi dottoressa, guardare... adesso ne farò una... Faccio notare che il nostro Sud ha 18 patrimoni dell'UNESCO, più di tutta la Gran Bretagna, incassa 3 miliardi 230 milioni di dollari contro i 45 miliardi della Gran Bretagna. Ho capito che c'è Londra, secondo me sappiamo anche valorizzare poco. Sappiamo bene che abbiamo, come si dice in questi casi, ampi margini di miglioramento. E guardando semplicemente alle classifiche, dobbiamo pure dire che il 2000 era un altro mondo rispetto, sì, al... No, ma guardi, lei ha ragione, però Francia, la Francia non ha perso tutte queste posizioni, neanche la Gran Bretagna. A noi ci sorpassa anche la Germania, che fa 130 miliardi contro mi dica... Sì, ci sono diversi aspetti, anche questi numeri vanno anche guardati su come si contano, nel senso che poi non tutto quello che è turismo, come lo intendiamo poi noi, è lo stesso che vanno a misurare gli altri paesi. Effettivamente ci sono parecchie riflessioni da fare, ma non voglio difendere l'indifendibile, è verissimo che noi perdiamo molto e che certamente una parte di questa mancata opportunità deriva da un assetto istituzionale che in questo momento non ci ha certamente aiutato. No, perché appunto eravamo il quarti, se non ricordo male, all'inizio degli anni 2000, ma ripeto, il dato importante, rifaremo una puntata, è che al di là di Cina e Stati Uniti, la Germania è a 130 miliardi, noi siamo a 67 miliardi, la Gran Bretagna a 100 miliardi, la Francia a 89, il Messico 80 e noi siamo a 67, quindi voglio dire, incassavamo 28 nel 2000, la Germania incassava 25 nel 2000, per cui c'è proprio un rallentamento della nostra industria. Però volevo capire un'ultima cosa sul ponte, che è una buona notizia, se no parliamo solo di... Certo. Mi dica, da quello che voi vedete, come si sta delineando la scelta, quindi le tipologie di scelta degli italiani in questa ripresa, che voi giustamente ricordate essere non dirompente ma costante negli ultimi mesi. C'è qualche caratteristica anche di scelta, di preferenza? Quello che tutti registriamo e che secondo me è un po' la fotografia del paese è il fenomeno del ormai last second, quindi è chiaro che ci stiamo orientando verso una visione un pochino più positiva, ma nessuno si sente le spalle così forti da fare come dire un impegno sul lungo termine, quindi anche la spesa turistica, che poi è quella a cui noi guardiamo, viene impegnata di fatto all'ultimo minuto, quindi quando la famiglia, come dire, ha fatto il quadro della situazione, dice vabbè dai andiamo fuori, facciamo una prenotazione, noi vediamo che arrivano ormai veramente all'ultimo minuto, poi chiaramente... Quindi c'è un aumento delle presenze, dei prenotamenti, ma non pianificati come prima, sì, esatto. Quindi io penso che questo sia dovuto sia alle difficoltà economiche, ma anche al grandissimo utilizzo della rete, dottoressa, perché questo lo puoi fare perché con il web tu riesci a verificare anche un'ora prima le disponibilità e a scontare anche prezzi migliori, no? Quando dicevamo il mondo è cambiato mi riferivo esattamente a questo, cioè tutte le dinamiche che poi concorrono alla spesa turistica sono talmente cambiate che hanno anche influenzato il modo in cui si fa spesa turistica. Guardi, io la ringrazio, la saluto, il mondo è cambiato, però quando parliamo di... per alcuni è cambiato in meglio, siamo noi che continuiamo a perdere posizioni, ma non solo nel turismo, per cui attenzione, perché vale anche per l'export agroalimentare, insomma, vari ragionamenti che facciamo. Comunque, bene che i dati sulle presenze siano in costante aumento, bene che siano tornati anche gli italiani, abbiamo capito che comunque hanno un approccio neosobrio di cui spesso parliamo. Grazie alla direttrice dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Barbara Casillo. Allora, parlare di tunnel quando inizia un ponte, mi fa notare un ascoltatore, è un po' ardito. Ne parleremo dopo il GR24, prima dell'arrivo dell'uccellaccio che aleggia anche su questo ponte del 2 giugno. Il segnale orario vi è offerto da... Semplicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. Minuti. Allora, dal tunnel del Gottardo al tunnel della nostra economia, la battuta è facile, però prima osservazione. Oggi erano presenti all'inaugurazione i capi di governo francese François Hollande, tedesco Angela Merkel, il premier italiano Matteo Renzi e chiaramente il premier svizzero e le autorità svizzere. Il tunnel, molti me lo stanno scrivendo perché Renzi ne ha parlato così tanto che sembra quasi che abbiamo anche un euro. Il tunnel è tutto in Svizzera. Il tunnel del Gottardo, oggi inaugurato, 57 km, la più lunga galleria al mondo, il più lungo, scusatemi, tunnel ferroviario al mondo, 57 km, va da Hersfeld praticamente collega le due località svizzere di Hersfeld e Bodio. Dopodiché da lì è ovvio che il tunnel serve per l'asse nord-sud Europa nell'ambito del corridoio Reno-Alpi, ma è per quello che si diceva, attenzione, perché noi invece dobbiamo completare il raddoppio del Brennero che è previsto nel 2025, sono 64 km. La Torino-Lione, sì, la data, poi c'è tutto il conflitto con i Notav, insomma la fine dei lavori è prevista per il 2029 e poi il terzo valico dei Giovi che dovrebbe essere concluso nel 2021, quindi auguri, siamo un po' in ritardo. No, lo dico perché a noi serve il tunnel del Gottardo anche all'interno, oltre che del rapporto nord-sud, e quindi il corridoio Reno-Alpi che collegherà Rotterdam, diciamo, con Genova, quindi due mari, mare del nord e mar Mediterraneo, mar Ligure. Però insomma non è merito nostro, lo dico perché si era creato un po' di confusione. Professor Boitani, Andrea Boitani, che insegna economia politica alla Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. E in collegamento con Andrea Ferro, che ha seguito ieri e oggi tutte le cerimonie. Buonasera Andrea, tu sei buonasera, ancora in Svizzera Sebastiano. O sei sono ancora in Svizzera, sono ancora in Svizzera. Ma sei dentro il tunnel, perché c'è una voce che... Sono uscito, però sembri ancora uscito. Dentro il tunnel, sì. Allora, al di là delle varie dichiarazioni che abbiamo messo anche nei vari servizi, anche la Merkel ha detto la galleria è il simbolo dell'unità d'Europa, a che cosa servirà concretamente quello che permetterà poi la velocità e che tempi ridurrà il tunnel del Gottardo sull'asse Rotterdam-Genova? Pronto Andrea? Andrea è in galleria però qua. Ferro, mi senti? Non mi sente più Andrea. Per quanto riguarda i tempi, eccomi. Vai. Sì. Hai un ritardo sul codec, penso che sia un codec questo. Ti richiamiamo noi. Professor Boitani, intanto faccio lei la domanda che tenevo per seconda. I ritardi che elencavo io sulle nostre opere, cioè noi stiamo un po' applaudendo questo tunnel del Gottardo che hanno fatto gli svizzeri con 11 miliardi di euro, cioè il costo del fallimento di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, in 17 anni, cioè meno del raddoppio della Salerno-Reggio Calabria, che ne ha almeno 23 di anni. Perché applaudiamo? Ma non si sa bene perché... Perché il tunnel ovviamente è molto utile per portare le merci che arrivano dal porto di Rotterdam verso il sud Europa, potrebbe essere utile anche per portare le merci che arrivassero, uso diciamo così un'ipotetica, al porto di Genova o di Savona verso il nord Europa. I problemi però sono proprio nei porti italiani, e cioè i porti di Genova, il porto di Savona, il porto della Spezia, che non sono in grado di offrire servizi così competitivi come i porti del nord Europa, in particolare quello di Rotterdam, e quindi in alcuni casi condizionieri preferiscono far arrivare le merci magari dal sud o dall'est del mondo fino a Rotterdam e poi farle arrivare verso il centro Europa piuttosto che non fermarsi a Genova e farle arrivare da sud. Ne abbiamo parlato anche con il numero uno delle Ferrovie dello Stato, perché lì c'è il problema dei retroporti cosiddetti, quando abbiamo parlato con Mazzoncini, e di questi lunghissimi treni da 750 metri, se non ricordo male, Boitani, che si riescono a formare in altri paesi, da noi manca proprio anche la parte di logistica dei binari. Però, come lei ricordava, sono i porti. Allora, Genova, a Civitavecchia stanno iniziando a sdoganare tanto in mare, però poi c'è il problema del retroporto e della logistica integrata. Adesso non posso fare una puntata solo su questo. Fatto è che le merci, come lei ricordava, nonostante ci mettano 3 giorni in più, preferiscono arrivare a Rotterdam e poi scendere nell'Italia del Nord. Questo è un assurdo. Obiettivamente, Andrea Ferro, l'abbiamo recuperato dal tunnel. Eccoci. Sono sempre nel tunnel. No? Sì, ci resti ancora per un po'. No, se vai avanti così, no? Ma dimmi un po' che cosa comporterà in vantaggi anche per noi e per gli spedizionieri olandesi verso l'Italia. Speriamo un domani anche per i nostri spedizionieri verso il centro Nord Europa, come percorrenza, numero di treni e velocità. Beh, allora, per quanto riguarda i tempi di percorrenza, una volta che diventerà operativo anche il tunnel di Ceneri, che sarà pronto nel 2020, praticamente tra Zurigo e Milano si viaggerà in 3 ore. E a quel punto entrerà a regime tutto il nuovo sistema che reggerà il corridoio Reno-Alpi del quale parlavi in apertura di collegamento. A quel punto infatti i treni potranno circolare a regime e saranno 250 merci e 60 passeggeri e chiaramente si creerà una relazione. Però come dicevate giustamente prima, il grosso problema dipende da noi, dipende dal terzo valico, perché se noi non rispetteremo, e io francamente nutro qualche perplessità, sono genovese, sono 40 anni che sento parlare della realizzazione del terzo valico dei Giovi, se non si completerà contemporaneamente al tunnel dei Ceneri, veramente perderemo completamente, come diceva il nostro ospite, competitività. A quel punto i 4 giorni di navigazione in più non saranno nulla rispetto a questo imbuto che si determinerà dalla pianura padana al Genova in andata e in ritorno. Quindi evidentemente adesso chi avesse una mappa, ma spero non mentre guida, sotto mano, capisce benissimo che il problema per la Genova e poi San Gottardo è il valico dei Giovi, appenninico, per cui da quel raddoppio, il famoso raddoppio dei Giovi, noi avevamo dato un elemento, il terzo valico, cioè non è il raddoppio, sono 53 chilometri di cui 37 in galleria, programmati da 15 anni, costo di 6 miliardi e 2, finora ne hanno trovati 2 miliardi e 2, i lavori sono all'11% di realizzazione, si stima al 2021. Boitani, il problema, mi scusi, sono i retroporti. E mi consente di dire una cosa, perché prego. Scusate, abbiate pazienza, ma avete detto una cosa profondamente sbagliata. Mi consente di dire. Prego. Allora, sia il mio omonimo che lei, il problema non è il terzo valico, okay. Ed è ovviamente così. Cioè questa è un'ovvia sciocchezza, perché il terzo valico, come lei ha detto, sono poco più di 50 chilometri, di cui 37 in galleria. Questo può abbreviare i tempi di percorrenza complessivi di un'ora. Un'ora e mezza? Sì, su 3 giorni le dice non cambia su nulla. 3 giorni. Ma infatti non la domanda che avevo per lei è nulla. E questo vale. Quindi, però anche per però questa è una cosa che abbia pazienza, perché io quando sento queste cose tendo a irritarmi. Perché questa cosa va detta con chiarezza. E cioè il problema di Genova non è certo l'assenza del terzo valico, è il problema del porto e del retroporto, è il problema dell'efficienza anche dei servizi all'interno del porto, oltre che quelli del retroporto. Quindi sono quelli i problemi che determinano i ritardi, delle nostre le merci che arrivano nel porto di Genova, ma anche in altri porti, per carità, italiani, rispetto a quelli dei porti del Nord Europa. Quindi, ma infatti la domanda che stavo per fare era proprio questa. Ho capito il terzo valico, però sapendo e avendo un po' ragionato anche con le autorità portuali dei problemi del porto, cos'è il retroporto, mi chiedono alcuni, come dice la parola, la parte dietro il porto dove tu componi le merci che vengono scaricate dai cargo, li componi di solito su base ferroviaria ma anche su gomma, e lì le operazioni di scarico, sdoganamento e composizione, la spiego male Boitani, ma di composizione dei convogli sono quello che fa la differenza. Domanda molto semplice: perché ci mettiamo? Allora, è un problema di spazi, perché alcuni mi hanno anche detto ma Genova dietro ha un problema geografico di spazi o di investimenti in infrastrutture? Prego. Ci sono problemi di spazi, tant'è vero che per esempio un grande spedizioniere mondiale che ha scelto il porto di Savona ha deciso di fare il suo retroporto al di là dell'Appennino Ligure, quindi diciamo così in Piemonte, e che ha deciso di fare la vecchia linea mettendo la tripla trazione invece che usare l'ipotetico terzo valico, perché appunto con la tripla trazione riesce a ottenere tempi di percorrenza. Cos'è la tripla trazione, mi scusi l'ignoranza? Tre locomotori. Ah, ho capito. Per arrivare su, e naturalmente questa è una cosa possibilissima e fattibile in più o meno tutto il mondo, quando ci sono delle pendenze forti, eccetera, eccetera, e treni molto lunghi. Una volta arrivato al retroporto, i treni si ricompongono o si compongono eventualmente TIR, perché ci sono merci che vanno in diverse direzioni, non è che vanno tutte nella stessa direzione una volta arrivate a Savona. Lo stesso dovrebbe essere fatto con Genova, fin quando i lavori di sistemazione dei binari all'interno del porto di Genova non saranno completati, e quindi sarà possibile fare comporre più treni all'interno, e soprattutto treni più lunghi all'interno del porto di Genova. Esistono poi problemi di servizi, sdoganamento, controlli sanitari, fitosanitari e via di seguito, che sono estremamente lenti nei porti italiani rispetto a quelli del nord Europa. E noi abbiamo raccontato anche che al porto, se non ricordo male, di La Spezia, il controllo fitosanitario doveva arrivare qualcuno da Savona o viceversa, è una cosa assurda, per cui raddoppiavi tutti i tempi. Lo sdoganamento in mare, io so che Civitavecchia lo fa con successo, mi sembra anche Genova, però Boitani lei forse ne sa di più, perché lo sdoganamento in mare riduce alcuni tempi. Riduce alcuni tempi, questo non c'è dubbio. E quindi ampiezza dei retroporti, è più la burocrazia o sono più le infrastrutture che pesano nel ritardo che noi prendiamo rispetto a Rotterdam, col paradosso che poi le merci per arrivare nel nord Italia non arrivino a Genova ma scendono da Rotterdam verso il nord Italia, Boitani? Allora, per quanto riguarda Genova esiste sia un problema di infrastrutture che un problema di burocrazia. Gran parte, e questo vale per tutti i porti della Liguria, data la conformazione geografica della regione. Per altri porti è essenzialmente un problema di burocrazia, come l'ha chiamato lei. Andrea Ferro, hai sentito? Mi raccomando, è vero che il terzo valico riduce di un'ora, però obiettivamente adesso ascoltando anche Boitani, così come il Gottardo avrà una velocità di 100 km all'ora, riuscirà a comporre ogni giorno 260 treni merci e 65 treni passeggeri, a 200 km all'ora viaggeranno i treni passeggeri sotto il tunnel, a 100 km quelli merci, con una riduzione del tragitto Zurigo-Lugano in 2 ore, però sono 40 minuti. Andrea, il vero problema poi è la parte nostra logistica e infrastrutturale. Sì, certo, è la nostra parte logistica, c'è da tenere presente anche che le gallerie del Terzo Valico consentiranno il passaggio di treni più grandi, più lunghi, più larghi e più alti, i treni sostanzialmente che viaggiano sulle tratte ferroviarie dal nord Europa verso il centro Europa. Siete tutti preparatissimi, tutti forse c'è bisogno anche di un innesto a questo punto, no? No, perché nel ringraziare il professor Andrea Boitani, nel ringraziare Andrea Ferro in collegamento con noi direttamente dal tunnel del Gottardo, perché abbiamo capito che eri lì dentro, saluto l'uccellaccio prima del traffico, professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera, caro. Dove vola? Tra le Alpi svizzere? Molto più alto. Le marittime, l'Appennino Ligure? No, io sono fuori dall'Italia, sono nell'Earthland, tra il Pakistan e l'Afghanistan. Senta, ha sentito molto il suo collega Boitani? Insomma, il problema, sì, facciamo il terzo valico dei Giovi, sì. Ma non dimentichiamoci della logistica integrata e della burocrazia, diciamo, nei porti. Sì, ma non v'è dubbio, tutto quello che Boitani è vero, comunque però il valico va fatto perché è una cosa fondamentale. Oh, tutti appassionatissimi in questo paese di infrastrutture, nel ringraziare Boitani e Ferro, resti con noi invece Sapelli, traffico. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presento Focus Economia. Allora, vedo molti che scrivono, vogliono in più informazioni sulla logistica, faremo delle puntate anche su questo. Professor Sapelli, Veniamo a tracciare un bilancio pre-ponte, visto che parlavamo di tunnel e di galleria, certo. Pre-ponte del 2 giugno. Allora, nell'ordine abbiamo avuto il presidente Confindustria la settimana scorsa, neoeletto Vincenzo Boccia, ieri il governatore della Banca d'Italia, Visco, vari osservatori a dire attenzione, la ripresa non è, lo stesso ministro Calenda quando è intervenuto in Confindustria, non siamo dove vorremmo. Oggi invece il ministro Padoan dice di nuovo, nell'intervista che abbiamo fatto sentire un passaggio a Sky, dice la crescita accelera, l'economia italiana ha svoltato. La sensazione che ho personalmente è che qui abbiano tutti ragione, non per citare un libro di Sorrentino, ma perché da un lato tutti i dati e gli indicatori che abbiamo empirici notano un miglioramento degli indici economici, però da un lato è una media di trilussa, per cui alcuni hanno un miglioramento e altri invece non vedono nulla, e dall'altro la divaricazione nel paese nel frattempo si è creata in questi anni. Allora, qual è il punto? Che il governo dovrebbe mettere più se e ma quando parla, perché è chiaro che se uno sente dire abbiamo svoltato, a lui non è cambiato nulla, si arrabbia. E a che punto siamo di questa ripresa economica? Dunque, innanzitutto non c'è ancora una ripresa, c'è stata la fine di una forte recessione, come un ascensore che a un certo punto raggiunge il piano basso e quindi termina di scendere, questo è già un fatto positivo. Naturalmente non ha ancora ripreso a risalire, e naturalmente, come lei ha detto, in questi 8 anni abbiamo perso circa dai 18 ai 20 punti di PIL. E poi abbiamo ancora l'11% di disoccupati con profonde divaricazioni territoriali. E nello stesso tempo, mentre abbiamo avuto una piccola ripresa degli investimenti e del mercato interno, che sicuramente la domanda ha avuto un risveglio, però abbiamo perso alcuni punti molto pericolosi sul fronte delle esportazioni, che come lei sa sono stati il mito di tutti questi anni, no? Che erano felici solo le imprese che esportavano. Questo è stato molto, molto grave, perché ci ha fatto dimenticare che un'economia sana è un'economia che ha un buon mercato interno. Lei pensa agli Stati Uniti, gli Stati Uniti esportano dal 7 al 10% del loro prodotto interno lordo e sono un'economia forte perché hanno un fortissimo mercato interno. Le famiglie americane consumano dal 40 al 50% del prodotto interno lordo mondiale. Quindi bisogna stare un po' attenti, non c'è una ripresa. E poi dal punto di vista della finanza, molte voci, molti comportamenti dei grandi investitori fanno prevedere uno tsunami di proporzioni gigantesche. Pensi naturalmente alla preoccupazione che c'è in tutto il mondo, e l'ha espresso bene Shinzo Abe nell'ultimo G7, che ci sia una nuova crisi finanziaria che abbia il suo epicentro in Europa per la questione di tassi di interesse negativi, che sta distruggendo le riassicurazioni e poi le assicurazioni. E quindi se una persona così impegnata nel riformulare la politica economica giapponese come Shinzo Abe, che come sai il Giappone aveva avuto quella sindrome per cui certo, non diceva, per 15 è così anni. Preoccupato, e quindi ha avuto un feroce dibattito con la signora Merkel, perché accusa l'Europa di essere la principale catena al piede per una ripresa per la politica di deflazione, lei capisce molto bene che queste rassicurazioni, il governo io capisco fa anche bene a farlo, ci sono le elezioni, poi non bisogna creare panico, però non c'è assolutamente questa ripresa, c'è che la recessione si è fermata, però ci sono nuvole all'orizzonte sul fronte della popolazione, ecco, mi sembra di capire che lei... sul credito, no, e soprattutto sul credito e sulla finanza. Ecco, Sapelli, però mi scusi, lei è più preoccupato rispetto a un rallentamento cinese, anche oggi i dati non erano ottimi dalla Cina sul manifatturiero, mi sembra più preoccupato da un rischio banca, ho capito bene, in Europa? Sì, sono preoccupato da un rischio banca perché abbiamo la più grande banca italiana sull'orlo di una crisi irreversibile. È meglio non parlare troppo del rischio banche alla televisione perché si genera panico. E poi abbiamo, io penso, soprattutto un rischio finanziario, perché si è creata un'enorme bolla di liquidità che si incrocia adesso con gli interessi di tasso negativo, e questo rischiano di avere una caduta delle borse. Lei vede che le borse in questi ultimi tempi, mentre per molti anni noi abbiamo visto che nonostante tutto la crescita azionaria era più o meno volatile ma una costante, adesso sono 2 o 3 anni non c'è più. Aggiungo l'ultima cosa che mi preoccupa moltissimo e che inquieta molti osservatori, di cui in Italia parlano pochissimi, è che c'è un calo costante della produttività del lavoro in tutto il mondo. Lei ne ha parlato meritoriamente, E questo, lei se mette assieme tutte queste cose, altro che ripresa. Voglio dire che forse è una boccata d'aria prima di uno tsunami. Una bella, io immagino tutti questi milioni di italiani in viaggio in questo momento con una mano sola. Ma va bene, con una mano sola deve sempre un po' svagare. Al volare, beh, li ha fatti proprio svagare. Senta, quindi più che ogni estate, noi negli ultimi anni siamo arrivati prima all'attacco sull'euro, poi per due anni ci siamo beccati la Grecia. Questa estate, se proprio non dovesse dire, visto che inizia con questo ponte, cosa guardare con attenzione? Andamento delle sofferenze bancarie nel nostro paese in primis. No, guarda, io le dico solo questo. Soros pare che abbia venduto tutto e compri solo lingotti d'oro. Sì, l'ha dichiarato. Ecco, vedi, io non l'ho sentito. Lo sapevo dai miei rumors che ho qui nelle alte vette dei cieli in cui vivo. E poi che tutti si disfano degli impegni mobiliari che hanno e investono solo nell'economia reale. Questo è un segno che il vero nemico è di nuovo e ancora la finanza. Quindi un eccesso di liquidità, traduco, certo, dovuto a tassi bassi che Draghi, a mio avviso, bene ha fatto ad avere per far ripartire l'Europa, però che non vengono riassorbiti come invece è successo negli Stati Uniti, perché manca gli investimenti pubblici. Sapelli, gira e rigira, però torniamo sempre lì. Se tu vuoi assorbire questa liquidità che Draghi ha messo a disposizione a tassi bassi, devi fare opere devi investirli con denaro anche pubblico, altrimenti non puoi aspettare che il privato li utilizzi e si indebiti se non vede prospettive di crescita. Ho capito male, mi dica, ho 30 secondi. No, ha perfettamente ragione, mi ha molto colpito favorevolmente finalmente, su questo ha insistito anche il governatore Ignazio Visco nella sua ultima relazione. Da Visco si aspettava un'autocritica più forte, sì o no? No, io da Visco non mi aspettavo una relazione così lucida, conoscendo quelle che ha fatto prima. È stata veramente una bella relazione, lucida, è giusta quella che deve fare un governatore serio, indipendente dalla politica. Sa, questo è molto importante, perché un tempo i governatori erano a vita, adesso con una disgraziata riforma che anche loro scadono, sì, devono essere rinominati, mi aveva la schiena dita. Ha fatto una buona relazione. Voli via sul Gottardo, sul Passo dei Giovi. Noi ci risentiamo domani in diretta dalle 17 in poi da Trento. Radio 24, la passione si sente.